Sono le ore 9:41 di martedì 12 novembre 2024. E come si dice in questi casi, non si sono ancora spenti gli echi delle elezioni americane. È appena trascorsa in modo pressoché indolore una giornata invece che dovrebbe farci riflettere sul dolore, la giornata del veterano, non so se si dica così in italiano, so solo insomma che ieri si sono celebrati i caduti di tutte le guerre e intanto il mondo marcia spedito verso la moltiplicazione delle guerre, non solo in Ucraina, non solo in Palestina, ma insomma in tanti altri luoghi di cui invece non si parla mai, penso al Mozambico per esempio, o intanto il Papa lo menziona. Comunque io non vorrei mai accodarmi allo stuolo di analisi e controanalisi che abbiamo sentito sulle elezioni americane, però mi riconosco abbastanza in quello che ha detto un giornalista che magari non amo moltissimo come Marco Travaglio, quando ha ripetuto cose che ci diciamo da tanto tempo anche qui in Italia, cioè che ormai lo scontro non è più tra destra e sinistra, è tra vecchio e nuovo, tra elite, anzi tra popolo ed elite, e naturalmente, ecco, aggiungo io, se ne passiamo quasi tutto il tempo sui social media per ricordare al mondo che facciamo parte dell'elite, cioè che siamo quelli che hanno studiato, che sono bravi, sollevando tutta una serie di temi e lamentandoci del fatto che alle persone questi temi non interessano, penso ai diritti delle minoranze, alle identità, eccetera, ai temi sull'identità di genere, anche il tema dei migranti, ma sempre da un certo punto di vista, non da un punto di vista un pochino più ampio, cioè quello che impatta sulla vita delle persone. Ecco, io credo che tutti questi temi siano sacrosanti ed è giustissimo continuarne a parlare, però comincio a chiedermi se sia il caso di mettere questi temi al centro della campagna elettorale. Tutto sommato, anche ripensando alla campagna di Biden, che poi vinse sempre di quel solito 3%, 2%, anche il voto popolare, la campagna di Biden non traboccava esattamente di questi temi, e poi però lui ha fatto una campagna, ha svolto un mandato presidenziale in cui di fatto ha perorato tutte quelle cause, forse in modo silente. Cioè, il problema è quando questi temi entrano a contatto dei media, perché non fanno altro che accendere una red flag appunto nel mondo rosso, nel mondo repubblicano, e mi verrebbe da dire invece da noi nel mondo azzurro o nel mondo nero, chiamatelo come volete. Fatto sta che questi temi alla fine nel tritacarne polarizzante dei social media sembrano svegliare anche le persone comuni, e le svegliano sempre dal lato sbagliato del cuscino. Quello per cui le persone si chiedono: ma davvero è questo il tema centrale? Oppure forse il tema centrale per me è quel numeretto che c'è in fondo alla busta paga, dove appunto la minoranza, come sappiamo, viene vista come un ulteriore antagonista dell'elettore silente, no? Scatenando quella famosa guerra tra poveri, dove l'avversario dell'elettore in difficoltà non è mai il miliardario, l'avversario è quello che sta peggio di te, e quindi tutta la campagna è sulla difesa del privilegio poracista che ti ritrovi per le mani. Ripeto, tutte riflessioni già fatte, già sentite. Quello che un po' mi preoccupa è che si è visto anche dopo le elezioni americane, e che tutti ci siamo affrettati a far vedere sui social che siamo quelli che hanno studiato, che insomma chi vince non l'ha fatto nel nostro nome, quindi noi prendiamo in realtà una distanza da questa maggioranza di elettori che ha votato Trump, così come abbiamo sempre preso una distanza da questa maggioranza che ha decretato la vittoria di Berlusconi prima, di Meloni poi, di Salvini anche a un certo punto, eccetera eccetera eccetera. Ecco, io comincio a credere che la campagna elettorale non sia il momento in cui si fa pedagogia della complessità, e soprattutto comincio a sentirmi a disagio proprio nella minoranza, citando un importante regista che invece sosteneva il contrario.